Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Nel corso dei secoli, il sesso è stato il motore del mondo. Ha dato la vita, spostato equilibri di potere, rivoluzionato i costumi. Per eccitare lo sguardo e accendere l'immaginazione, i corpi femminili sono stati raffigurati fin dalla preistoria sulle pareti delle caverne con seni e fianchi abbondantemente tondeggianti, in modo da suscitare il desiderio dell'uomo. In epoca romana le immagini erotiche sono diffusissime. Lo testimoniano le pareti sopravvissute a Pompei. E i pittori di tutte le culture e tradizioni si sono dilettati a dipingere figure femminili nude, lascive, ammiccanti. Ma c'è un uomo che da solo, in pochi anni, ha completamente cambiato l'erotismo con effetti rivoluzionari per l'intera società. È il fondatore di Playboy. Il suo nome è Hugh Hefner. Hugh Hefner. I'm Hef. Hef, come lo chiamano tutti, è una figura stravagante e carismatica che a 80 anni suonati continua a vivere nella sua reggia di Beverly Hills, circondato da ragazze di 20 anni sexy. Ha condotto una vita sopra le righe, esagerata, eccessiva. Quando nel 2009 è arrivato con le sue conigliette a Sanremo per partecipare come ospite al festival, le cronache l'hanno raccontato così. Hugh Hefner, le sue tre fidanzate e 30 conigliette di Playboy hanno letteralmente arroventato l'atmosfera del festival di Sanremo, dove sono sbarcati per essere protagonisti. Sul palco dell'Ariston, lo staff del signor Playboy comprende 16 persone. Con lui il fratello, le tre fidanzate, una playmate ucraina, il segretario personale, l'ufficio stampa, due addetti alla sicurezza e gli addetti al benessere, massaggiatore, fisioterapista ed altri. Hefner si porta il cibo dall'America e pretende che venga cucinato solo secondo le sue direttive. Non è stato facile trovare un ristorante a Sanremo che lo accontentasse, alla mania del lusso e soprattutto della seta, dalle lenzuola al pigiama all'abbigliamento. Ovviamente le sue tre fidanzate sono bellissime. Negli anni ha costruito un impero quotato in borsa e le sue produzioni sono spalmate al di là della carta stampata su ogni piattaforma mediatica. Se è riuscito a raggiungere un successo planetario, è stato grazie a un'intuizione geniale: sdoganare il nudo e renderlo pop, alla portata di chiunque. Tutto comincia nel lontano 1953. La guerra è finita da qualche anno e Hugh, non ancora trentenne, dopo aver servito l'esercito americano, è tornato a casa, nella sua Chicago, e si è laureato in psicologia. Gli è sempre piaciuto ascoltare gli altri, dare consigli, e fin da piccolo ha avuto una specie di dono, di sesto senso, di capacità di leggere la realtà circostante. È lui stesso a ricordarlo con tenerezza. C'era una situazione in cui io capivo gli altri ancora prima che parlassero. Riuscivo a capire al volo cosa volevano e cosa stava per succedere. Per esempio, Hugh capisce che l'America degli anni 50 in cui è immerso è un'America che sta cambiando. Sono soprattutto i giovani che si fanno sentire, che rivendicano un ruolo autonomo all'interno della società. Ascoltano il rock and roll, vanno in motocicletta, guardano i film con James Dean e Marlon Brando, si ribellano allo stile di vita borghese delle loro famiglie. Le ragazze indossano le gonne a ruota e sono combattute tra il ruolo tradizionale della casalinga tutta marito, figli e biscotti fatti in casa e la voglia di emanciparsi con lo studio e il lavoro. I ragazzi vogliono divertirsi e trasgredire. Si infilano i jeans, una giacca di pelle e schiacciano i capelli con la brillantina, quella specie di gel simbolo di un intero periodo e che in inglese si chiama grease. Sentiamo quello che ha fatto Danny al mare? Sì. Non è successo niente. Oh. Bene. Sei arrivato fino alle butane. Sì, dai, raccontaci quello che hai fatto, forza. Tu che hai fatto quest'estate, Sandy? Ah, sono stata sempre al mare. Ho conosciuto un ragazzo. Ah, hai trascinato le tue grazie al mare solo per un maschio. Beh, un tipo speciale. È un genere che non esiste. È stato così romantico. Summer dreams ripped at the seams. But the summer night. Hugh è inquieto, attivo, è un vulcano di idee. È tanto tempo che ha in mente di entrare nell'editoria, di inventare un giornale, e comincia a pensare a un modo per dare ai giovani quello che cercano, eccitazione e libertà. È un acuto psicologo più per talento naturale che per studi. Non ci mette molto a capire che i suoi coetanei hanno voglia di divertirsi e di trasgredire. D'altra parte lui stesso è cresciuto in una famiglia puritana e repressiva e, come spesso accade, ha covato una fortissima spinta verso la trasgressione. Lo ribadisce con queste parole. Sono cresciuto in una casa veramente chiusa e proibizionista. Una casa oppressiva in cui non c'era mai un abbraccio e non ci si dava mai un bacio. Una situazione per niente rara. Gli basta guardarsi intorno per capire che c'è un fortissimo senso del pudore che sopravvive nonostante le ribellioni delle nuove generazioni, e il sesso continua a essere il più grande dei tabù. Sono i ben pensanti a decidere ancora cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è lecito e cosa no, cosa si può fare e cosa è proibito. E quindi le cose si fanno di nascosto. I drive-in sono strabordanti di macchine in cui le coppiette mettono dei giornali sui vetri come protezione e si amano mentre il film scorre senza che a nessuno interessi davvero. Mariti e padri modello sognano la conturbante vicina di casa che si abbronza in giardino in costume da bagno, castigatissimo per la moda di oggi, ma in grado di scatenare la fantasia di allora, se si pensa che nel 1951 il bikini è addirittura vietato al concorso per Miss Mondo. I teenager, neonata categoria sociale che fa degli adolescenti non più solo dei ragazzi che stanno traghettando verso l'età adulta, ma anche individui completi e consumatori, nascondono le riviste pornografiche nella cameretta e le sfogliano senza farsi vedere. Tutto quello che riguarda il sesso si fa, ma non si dice. Un vizio storico che il maestro del cinema erotico italiano, Tinto Brass, sintetizza così. C'è la censura della cultura, che il tema della sessualità e dell'erotismo ha fatto fatica ad accettarlo. Ancora è considerato qualcosa di non nobile. Il punto è proprio questo, la nobiltà. Hugh ha in mente di fare un giornale trasgressivo, ma capisce che questa trasgressione va in qualche modo legittimata, resa alta, raffinata, per non finire a riempire gli scaffali destinati alla pornografia da quattro soldi. Se gli intellettuali leggono i racconti erotici di Henry Miller e Anais Nin senza nascondersi, perché la considerano letteratura a tutti gli effetti, perché questo non dovrebbe accadere anche con una rivista? È la chiave per la svolta. Mescolare fotografie di nudo soft pornografico con interviste approfondite a grandi personaggi, firmate possibilmente da famosi scrittori. La mente e la carne, l'alto e il basso, il sacro e il profano. Ed è con questa formula che nel 1953 esce il primo numero di Playboy. Hefner sceglie di non mettere la data perché è scaramantico e non sa se ci sarà mai un secondo numero. Di una cosa però è sicuro, che non scenderà a compromessi, ma manterrà la sua linea anche a costo di chiudere. E fin da subito la filosofia di Playboy è chiara. La filosofia di Playboy è innanzitutto celebrare la vita, far vedere che ci sono cose belle per cui vale la pena di vivere, e una di queste è certamente il sesso. Nel mondo non ci deve solo essere dolore, sofferenza. Ci vuole gioia, allegria. Bisogna star bene e divertirsi il più possibile nella vita. Il paginone centrale, riservato a una foto di grande formato della Playmate del mese, ritrae la diva delle dive, Marilyn Monroe. Bye bye, baby. Per posare nuda era stata pagata $50 e la foto era uscita per un calendario senza citare il suo nome. Quando un ricattatore aveva minacciato di rendere il fatto di pubblico dominio, Marilyn, facendo spallucce, aveva ammesso senza problemi di essere stata spinta dalla fame. Hefner, comprando i diritti di quella foto, fa centro. Si sparge la voce e tutti acquistano la rivista che ha come logo il coniglietto con il papillon, simbolo del sesso giocoso. Siccome c'è Marilyn, è lecito comprarla. Hefner guarda sorpreso ed eccitato l'esplosione di Playboy, la sua creatura. In America il sesso e i comportamenti legati al sesso sono cambiati in modo sconvolgente quando ho pubblicato per la prima volta Playboy. Quando io ero ragazzo, rimanere incinta fuori dal matrimonio era uno scandalo che portava le ragazze perfino al suicidio. Il sesso libero era illegale, anche dentro al matrimonio, se non era per fare figli. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy Se Playboy negli anni 50 sconvolge l'America, l'Italia è ancora più provinciale. La censura cinematografica e televisiva tocca qualsiasi cosa, dalla lunghezza delle gonne alle parole, alcune delle quali vengono addirittura ritenute sconvenienti perché si possono prestare a doppi sensi. Lo racconta il film Bulli, Pupe e Marinai di Daniele Danza. Per carità, niente membro del Parlamento. Come niente membro? Signorina, signorina! No, diciamo componente, molto meno. Oh. Ma non è per me, creda, io sono un vecchio liberale, si figuri. Ma quelli su non la pensano così? Mentre Hefner fonda Playboy e a Parigi Alain Bernardin dà vita allo sfavillante Crazy Horse, dove ballerine disinibite si esibiscono in show raffinati e conturbanti, in Italia le ragazze più belle partecipano a quel concorso di bellezza pudico e per tutti che è Miss Italia. È il 1939, quando Dino Villani, con la collaborazione di Cesare Zavattini, organizza per la prima volta 5.000 lire per un sorriso, per sponsorizzare una marca di dentifricio. Le ragazze non devono nemmeno sfilare sulla passerella, è sufficiente inviare una foto. Le foto vengono pubblicate sui giornali e ritagliate dai ragazzi che partono per la guerra. Dalla trincea, i soldati sognano i sorrisi delle miss e scrivono lunghe lettere d'amore. Dopo l'interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, la gara riprende nel 1946 e diventa Miss Italia. Nel 1947 il concorso sforna ben tre delle future dive del cinema italiano: Gianna Maria Canale, Gina Lollobrigida e la vincitrice Lucia Bosè. Quando pensi nel 47 è uscito tutto il cinema italiano, cioè vuol dire che eravamo tutte belle, ma soprattutto con le facce una diversa dall'altra, no? Perché non c'entravo niente io con la Lollobrigida, Gianna Maria Canale, Silvana Mangano, ma tutte belle, ma tutte diverse, e tutte abbiamo fatto del cinema. Le fanciulle, fisici formosi e costumi castigatissimi, adesso sfilano in passerella. Misure obbligatorie fino al 1990 sono i canonici 90-60-90. I papà, dalle prime file, guardano in un misto di orgoglio e gelosia. Sono contenti che le loro figlie esibiscano tutto il loro fascino per tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma fanno contemporaneamente da censori, perché non si mostrino troppo discinte o disinibite. Qualche ragazza che aveva passato la selezione alla fine non si presenta. I giornali dell'epoca giustificano la rinuncia per quelle che definiscono comprensibili ritrosie di famiglie e fidanzati. A partire dal 1959, l'organizzatore e patrono ufficiale della manifestazione è Enzo Mirigliani, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a questo progetto, che ha visto passare nel corso degli anni giurie, ragazze e cambiamenti della società, e che grazie al concorso è sempre stato a contatto con la realtà delle nuove generazioni, come racconta la figlia Patrizia, che da quando è mancato ha preso il suo posto. È emozionante entrare in un mondo di giovani, perché è vita, insomma. Poi Miss Italia è un concorso che si evolve in continuazione, quindi... Mirigliani ha attraversato successi e insuccessi, e anche polemiche, numerose polemiche, soprattutto sul ruolo della donna. Era un uomo sobrio ed educato, paterno con le ragazze ed elegante con gli intervistatori. Un uomo, insomma, piuttosto agli antipodi rispetto al patron di Playboy, Hugh Hefner, che dell'ostentazione ha fatto una bandiera. Pamela Anderson, eroina del telefilm Baywatch, che per Playboy ha posato molte volte, ne parla così. Hef è ancora un ragazzino, non invecchia mai. È birbante, malizioso, è impossibile non adorarlo. Se Mirigliani dirige un concorso per famiglie, in cui il requisito fondamentale per le concorrenti è essere acqua e sapone, ragazze della porta accanto, insomma, diventare conigliette, vale a dire posare, per Playboy è tutta un'altra cosa. Le modelle sono molto procaci, provocanti, sexy. Devono lasciarsi ritrarre nude in pose erotiche, perché anche se Playboy non si può considerare un giornale pornografico, di certo le fotografie sono molto esplicite, spinte. In ogni numero, il grande paginone centrale è dedicato alla Playmate, vale a dire la coniglietta del mese, scelta personalmente da Hef e dal suo staff. La grande immagine è accompagnata da una breve biografia e da una tabella riassuntiva che condensa dati anagrafici, misure anatomiche e altre curiosità. Alla fine di ogni anno, tra 12 Playmate, Hef ne seleziona una, che diventa la coniglietta dell'anno. un momento sempre magico per lui, come racconta lui stesso. Deve essere una scelta speciale, perché quella donna deve entrare nei sogni. Ma anche ai sogni, prima o poi, ci si abitua. Dopo l'esplosione del primo numero, mese dopo mese, le ragazze di Playboy sembrano essere tutte uguali, belle certamente, ma statiche, senza fuoco dentro. F, a cui non sfugge mai niente, se ne accorge prima degli altri. Capisce che gli uomini continuano a comprare Playboy sia per le fotografie che per gli articoli scritti da penne autorevoli, ma ha la sensazione che si possa fare molto di più. E così, mentre il giornale continua a uscire nelle edicole, F non è soddisfatto. Proprio lui, fautore di una rivoluzione sessuale senza precedenti, che sta combattendo una battaglia perché tutto ciò che riguarda l'erotismo si possa mostrare senza moralismi, sente che deve spingersi oltre, dare scandalo fino in fondo, sconvolgere il mondo. Non sa ancora che di lì a poco il destino gli farà incontrare qualcuno in grado di osare molto più di lui. Destini incrociati. A Destini incrociati, l'atmosfera si sta facendo incandescente. Hugh Hefner ha fondato un giornale destinato a rivoluzionare il mondo dell'erotismo, Playboy. È il 1954 e la rivista esce ormai da quasi 2 anni. Ogni numero è un perfetto mix tra approfondimento, prodotto dalle migliori penne viventi, e fotografie di nudo artistico, spesso abbastanza spinto, di ragazze che in relazione con il logo della rivista, un coniglietto, vengono chiamate conigliette. La formula, cultura ed erotismo, è nuova e vincente, perché in qualche modo il versante alto del giornale ne legittima l'acquisto. Hefner non è uno sprovveduto. Ha pensato molto all'idea prima di uscire con il primo numero e il mercato gli ha subito dato ragione. È lui stesso a ricordarlo con orgoglio. Avevo una grande occasione e me la sono giocata nel migliore dei modi. Forse fin troppo. Nel primo numero, il paginone centrale, riservato alla Playmate del mese, è dedicato a Marilyn, la divina. Hefner ha giocato il carico da 90. E ora il giornale sta cominciando ad abbassare lo standard, sta un po' diventando stanco, già visto. Le ragazze sembrano assomigliarsi tutte. E superata la novità, il pubblico ha iniziato ad abituarsi. Ma Hef, così lo chiamano tutti, non è uno che sta a guardare. Inizia a darsi da fare per stupire ancora, per provocare un'altra volta, per superare ogni limite. E un giorno il destino gli mette sotto il naso la sua occasione. È molto tardi, ma Hef è ancora in ufficio, ormai da solo. Sta scegliendo tra alcune proposte pubblicitarie, ma quasi gli si chiudono gli occhi dal sonno. D'altra parte non sarebbe la prima volta che dorme lì in redazione. Non c'è più nessuno e lui, esausto dalla giornata, ne approfitta per togliersi le scarpe e accendere la radio. La musica pop, il jazz, il rock sono sempre stati fondamentali nella mia vita per star bene. La musica ti suggerisce più cose di molti discorsi. Dalla finestra aperta arriva una folata di vento dritta sulla scrivania e sparge tutti i documenti per terra. F fa per raccoglierli e nel mucchio di immagini da selezionare incappa in una foto. È il ritratto di una pin-up tutta curva e nuda nella giungla con a fianco 2 ghepardi. F si deve sedere, sente il fuoco che gli attraversa tutto il corpo. Lui, che ha a che fare quotidianamente con ragazze seducenti, non ha mai visto una foto più conturbante di quella. Chiama il suo collaboratore. Non importa se è tardi e sta dormendo, è troppo importante. Deve sapere chi è quella ragazza. Scopre che le foto sono state fatte da Bunny Yeager, ex modella e aspirante fotografa, all'ex parco naturale africano di Boca Raton, in Florida. La protagonista degli scatti è una mora con la frangetta sbarazzina e lo sguardo furbo. Il suo nome è Betty Page. Betty Page. Ok. Hey there, my name is Betty Page. F non dorme tutta la notte. Non vede l'ora che sia mattina per contattare Betty. Lei, dal canto suo, appena riceve una chiamata da Hefner in persona, organizza il viaggio in fretta e furia e si precipita da lui. Quando entra dalla porta della redazione, l'ufficio si ferma. Gli uomini restano a bocca aperta per la sensualità che ha qualsiasi suo gesto, anche il più istintivo e innocente, come una stretta di mano. Le donne la invidiano all'istante. Vorrebbero essere così, lunghi e folti capelli scuri, occhi chiari, seno prorompente e vitino da vespa. Hefner è come ipnotizzato. Vuole sapere tutto di lei. Betty Page, classe 1923, è originaria del Tennessee, più precisamente sobborgo di Kingsport. Quando ha solo 10 anni, i suoi genitori divorziano e lei e la sorella vengono affidate alle cure di un collegio. Un periodo molto duro per entrambe, come ricorda la stessa Betty. Non era facile, ci sentivamo sole. Io ero molto timida e me ne stavo in un angolo a leggere tutto il tempo. Non parlavo con nessuno. Betty passa il tempo con i libri in mano ed è un'ottima studentessa, al punto da sfiorare la borsa di studio. Si diploma e si iscrive all'università. Vorrebbe diventare un insegnante, si laurea in arte, ma man mano che frequenta il corso di teatro, capisce che la sua strada è un'altra, ben più ambiziosa: diventare una star. Non è facile entrare nel mondo dello spettacolo, ma Betty sente con tutte le sue forze che può farcela. Non le interessa quello che pensa la gente, il perbenismo della società che la circonda. Si sposa e divorzia. Una scelta non molto diffusa per una donna degli anni 50, ma lei non vuole stare a casa con il grembiolino a fare figli e sfornare muffin al cioccolato. Vuole esibirsi, stare sul palco, farsi guardare. È provocatoria, sfrontata, scandalosa. E il posto giusto per lei è New York. In città si mantiene facendo la segretaria e comincia a essere contattata dalle agenzie per fare la modella. Ma tutti cercano di cambiare il suo aspetto e la sua personalità, e a Betty proprio non va giù. Tentarono di farmi diventare come Joan Crawford. Lei mi piaceva anche, era dolce e sfrontata insieme, femminile e indipendente. Ma non ero io, non mi riconoscevo. E così un giorno, in piedi davanti allo specchio, Betty cerca sul suo volto un particolare che possa renderla riconoscibile tra le tante, qualcosa che la renda unica. Istintivamente prende un paio di forbici e si taglia la frangia, creando il suo marchio di fabbrica, l'immagine di quella Betty che è destinata a entrare nell'immaginario di generazioni. Incomincia a posare per alcuni studi fotografici, spesso nuda, ma le sue fotografie non vengono pubblicate. Nel 1951 è la svolta. Irving Clough la immortala in scene fetish, sadomaso, erotiche ed eccessive. Immediatamente, negli ambienti ristretti di appassionati del genere, diventa la regina del bondage. Le piace cucirsi i vestiti da sola. Si diverte a scegliere accessori sexy e divertenti, gli stessi del mondo burlesque, riportato in voga in anni recenti da Dita Fontis, che a Betty si ispira moltissimo. È molto interessante la figura di Betty. Lei è fondamentale per il burlesque e per l'immagine stessa della donna. Betty ha insegnato un modo di essere donne e un modo per sentirsi sexy. Le foto che circolano di Betty sono spinte, allusive, ma mai pornografiche. Più si fa immortalare, più prende confidenza con la macchina fotografica e col suo corpo. Si scioglie, si sente naturale, adora sentirsi tutti gli occhi addosso. Naturalmente, la censura di quel periodo cerca di metterle i bastoni tra le ruote, condannando le sue immagini a restare nell'ombra. Un intervento, quello della censura, che Tinto Brass commenta così. Interventi della censura che sono ripeto, mortificanti, sono dei cerberi, dei guardiani, dei cani da guardia del potere, in definitiva, i censori. Fanno quello che gli dice il potere, fanno quello che dice il potere. Betty è rassegnata. Sa che in qualche modo è destinata a rimanere una modella specializzata in bondage. La cosa non la imbarazza, anzi è fiera del suo lavoro e di come lo affronta senza pudori. Lo fa per scelta, perché le piace, non perché qualcuno la obbliga a farlo. La sola cosa che la rattrista è che la gioiosità del sesso impressa in quelle foto, un sesso spudorato ma puro, ironico, giocoso, non possa essere condivisa dal grande pubblico. Finché un giorno arriva il grande Hefner e per Betty è la svolta del destino. Adesso sono nella redazione di Playboy seduti uno di fronte all'altra, Hef e Betty. Lei indossa una gonna strettissima sotto il ginocchio, che le stringe la vita accentuando il suo fisico da pin-up. Lui è preoccupato per le sorti del suo giornale, ma rimane travolto dalla risata di quella ragazza del Tennessee che ha tutto l'aspetto di una bomba pronta a esplodere. Hef non ci pensa due volte e le propone di posare per Playboy. Non come una coniglietta qualsiasi, ma come Playmate del mese, a cui è riservato il paginone centrale con tanto di biografia e curiosità. Sta cercando da tempo di dare una scossa alla sua rivista e sente che Betty è la persona giusta. Lei senza parole accetta immediatamente, incredula e felice. Nessuno dei due sa ancora che per entrambi è l'occasione del destino. I know what boys like, I know what guys want. I know what boys like, I got what boys like. I know what boys like, I know what guys want. I see them looking, I make them want me. I like to tease them, they want to touch me. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1955 e un uomo e una donna stanno per sconvolgere l'America. Lui è Hugh Hefner, padre di Playboy, la rivista erotica per eccellenza. E lei è Betty Page, pin-up prorompente specializzata in bondage e sadomaso. Playboy, dopo l'esplosione iniziale, rischia di omologarsi alle altre riviste e Hefner sta cercando il colpo grosso per non finire nel dimenticatoio. Trova quello che cerca in Betty, un colpo di fulmine, come ricorda lui stesso. È stata una folgorazione. Volevo quella donna e la volevo sul mio giornale. Per Hefner, abituato a essere circondato da donne stupende ed eccitanti, quella per Betty diventa una vera e propria ossessione. Se la sogna la notte, gli sembra di riconoscerla nelle ragazze per strada, la desidera con tutto se stesso. I suoi collaboratori e i suoi amici arrivano ad avere paura per la sua sanità mentale, ma invece Hef sta solo anticipando quello che succederà a migliaia di uomini in tutto il mondo. Tutto è pronto per l'uscita del numero su cui Hef sta puntando per la svolta del giornale. Nel paginone centrale c'è una Betty Page nuda nella giungla con accanto due ghepardi. Un'immagine aggressiva ed erotica come mai se ne erano viste. Quando la rivista di prima mattina arriva nelle edicole, Hef è appostato dietro a un angolo per controllare i primi commenti di persona. L'effetto è ancora più sconvolgente di come si immaginava lo stesso Hefner. In poche ore si innesca un passaparola che spinge uomini di tutte le età a comprare il giornale, che deve addirittura essere ristampato, cosa mai avvenuta prima. Tutti si chiedono chi sia la procace pin-up del mese. Si scatena la curiosità, non solo degli uomini, ma anche delle donne, che la vedono come un'icona di stile da imitare. Hefner rilancia e fa diventare Betty Page un mega poster per l'anniversario dei 2 anni di Playboy. I'll be everything that I wanna be. I am confidence in insecurity. I am a voice yet waiting to be heard. I'll shoot the shot bang that you hear around the world. And I'm a one girl revolution. I'm a one girl revolution. I'm a one girl revolution. Playboy, grazie a Betty Page, sfonda ovunque. Quelle foto così moderne e provocanti fanno il giro di tutto il mondo e la rivista entra nella leggenda. Hef si gode il successo e i soldi che continuano a moltiplicarsi, mentre il coniglietto diventa un marchio di culto. Posare per Playboy è un sogno per milioni di ragazze, un punto di arrivo più che di partenza. Così ricorda la sua esperienza Pamela Anderson, idolo pop degli anni 90. Quando mi è stato chiesto, ero eccitatissima. Voleva dire essere consacrate come dive. E se il giornale deve la sua esplosione a Betty Page, per lei Hefner è la svolta di un'intera vita. In poco tempo la sua immagine diventa un'icona e finisce dappertutto. Centinaia di libri, riviste, cartoline e perfino carte da gioco. È lo sdoganamento. una modella sadomaso, abituata a essere riconosciuta solo nei privé e nei circoli, si trasforma negli anni successivi in una diva internazionale, che in un periodo brevissimo riesce ad apparire in più riviste di Marilyn Monroe e Cindy Crawford insieme. E a chi le chiede se non le dia fastidio posare nuda, lei risponde così: mi sono sempre divertita. Per me non c'era differenza rispetto a posare in bikini. Sapevo che non stavo facendo niente di sbagliato. F stravede per lei, al punto che quando è costretta a presentarsi in tribunale per bancarotta, è lui a tirarla fuori. E Betty si sentirà in debito con lui per tutta la vita, come ricorda con affetto. Era più di un amico, era un padre, un fratello, un amore anche. Non nel senso tradizionale, ma a modo mio, io l'amavo. Mi ha salvata e mi ha cambiato la vita. Anche se può sembrare esagerato nel contesto di oggi, quella di Betty Page e Hugh Hefner è stata un'avventura che ha dato vita a una rivoluzione. Una rivoluzione prima di tutto sessuale e poi, in senso più esteso, culturale. Playboy ha liberalizzato l'erotismo, l'ha reso qualcosa di cui non vergognarsi, qualcosa da vivere liberamente, in modo giocoso, senza sensi di colpa. Ha sfidato le leggi borghesi e cambiato la società molto più della politica, a colpa di sexy conigliette. Ha dato vita a una nuova idea di libertà e combattuto il comportamento del fare le cose di nascosto per difendere una moralità che spesso è solo convenzionale. Un vizio di cui, come nel film italiano Il comune senso del pudore, si può anche ridere. Buonasera, signori. Mi dia le ore, la libertà, le vie dell'orgasmo e lo scambio delle mogli. Aspetta anche la Normanna in calore. Ma come le ore, possibile? I coniugi rossi. Riconosci? Altro che, sono del mio paese. La Normanna in calore. Ecco, 6.750. Grazie, buonasera. Buonasera, arrivederli signori. Se resta qui un po' con me, ne vedrà più di uno. Si riforniscono tutti qui i suoi compaesani, specialmente il sabato sera. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24. Dobbiamo sapere tutto quello che è successo. Oh, ragazzi, non dovete mica sapere tutti i particolari. Sì, dai. Ok.